come vi ho detto e come dico spesso, tornando in diretta in mostra Radio Città Fujiko, ogni storia, se non comprende una storia d'amore, che storia è? Beh, adesso non esageriamo, però insomma qua viene fuori tutta la mia vena sentimentale, insomma. Quindi dopo Isabella Colbran, figlia di Giovanni, che conosce a Napoli Gioacchino Rossini, si innamorano. Lui ovviamente è un grandissimo musicista, lei però altrettanto importante cantante e attrice, scocca la scintilla di Cupido e questo insomma è un dardo che è molto importante. E continueremo a parlare di storie d'amore all'interno delle nostre rubriche, in questa in particolar modo. Abbiamo parlato e già anticipato il nostro protagonista, che è Giorgio De Chirico, e nella meravigliosa città estense di Ferrara, beh, avrà un che di romanzesco anche un suo innamoramento. Ne parleremo con la curatrice dell'esposizione a Palazzo Sarcinelli, Victoria Noel Johnson, per questi segmenti di conversazione che ho tenuto nel presentare Oltre e una continuità soprattutto metafisica. Metafisica al di là della fisica, l'etimo è in traduzione così portato, ma abbiamo parlato di storie d'amore. Dovete sapere, anche di questo parleremo con la curatrice, che una delle mie opere preferite è Ettore e Andromaca di De Chirico. Questo la continuità con il classicismo di cui parleremo all'interno dell'arte di questo grandissimo autore. Beh, allora con Pietro qua con me nella nostra motivazione di passioni in comune, non ti faccio venire in redazione solamente per un quarto d'ora, 20 minuti, seppur importantissimi, magari se ti puoi fermare, non so, conosci, ti piace Giorgio De Chirico? Lui alza la manica della camicia e che ha il tatuaggio, e non piccolissimo, di Ettore e Andromaca di De Chirico. A proposito di storie d'amore, perché non hai fatto un tribale come tutte le persone normali? Beh, come dire, un minimo di snobismo intrinseco e poi e poi vabbè, come... non credo sia solo quello. No, assolutamente, non, perché tra i tanti abbiamo scelto proprio De Chirico. E poi perché, come dicevi te, questo continuum fra classicismo e no, un'interpretazione dell'arte particolare come quella di De Chirico, che è sui generis, per usare un eufemismo. Perché Ettore Andromaca in particolare? Perché no, c'è anche il rimando allo stoicismo, c'è il rimando al fatto che Ettore è consapevole del proprio destino e appunto si congeda, si congeda da Andromaca, rappresentato secondo me benissimo da De Chirico nel fatto che i due manichini non hanno le braccia. Quindi loro provano ad abbracciarsi, ma non possono. Non riescono, e infatti la tua interpretazione, chapeau, è veramente azzeccata sulla metafisica. Tresigallo, ti ho citato in precedenza, è la città della metafisica, infatti in ogni scorcio sembra veramente di respirare questa sensazione. 1916-1917, durante il primo conflitto mondiale, si trovano a Ferrara alcuni artisti, De Chirico, il fratello Andrea, che insomma dice: io non mi faccio chiamare Andrea De Chirico, perché sappiamo bene il tuo talento e le tue prospettive e le piazze d'Italia e gli interni ferraresi e i manichini senza volto. No, io, a parte che anche Andrea De Chirico, che poi si farà chiamare Alberto Savigno, ti posso assicurare che è un altro artista di grandissima ispirazione. Il suo rappresentare la Madonna col bambino come Pellicano per me è un capolavoro assoluto. Non è certo blasfemia. Perché tutto ciò? Perché il Pellicano è l'unico animale che, pur di sfamare i pulcini, si strappa la carne dal proprio corpo. Quindi è un esempio di maternità veramente sublime. Ha sublimato, hai capito? La maternità con questi concetti. Ma non solo i fratelli che ho citato, anche Carlo Carà e Giorgio Morandi, e ovviamente ha dei confronti molto importanti per quanto riguarda quello che sarà subito dopo, pochi anni dopo, di cui ricorre a breve il centenario, che è il surrealismo. Ma sono due aspetti ben diversi. Ne parleremo con la curatrice che ho contattato per l'esposizione che troviamo a Palazzo Sarcinelli in quella di Treviso, a Conegliano per l'esattezza, scusate, la metafisica continua. Quindi un periodo neometafisico, una continuità anche con la sede espositiva. Beh, non ci resta che iniziare queste nostre conversazioni con la curatrice Victoria Nell Johnson e scoprire di che si tratta. Tra l'altro la mostra è appena aperta. Giorgio De Chirico, Metafisica continua, ed è a Conegliano, provincia di Treviso, a Palazzo Sarcinelli, una sede espositiva che dà continuità anche all'esposizione stessa, che riporta il titolo Metafisica continua. Ne parleremo con la curatrice qua con noi, Victoria Noel Johnson, al quale do il buongiorno. Buongiorno. Allora, come ho detto, un gigante, un grande che già dal titolo lascia presagire un percorso dialogico con sede espositiva e non solo. Ci può dire qualcosa di più a tale proposito? Sì, certamente. Allora, la mostra consta di più di 70 opere e sono state tutte prestate da parte della Fondazione Giorgio Iso di Chirico, che ha sede a Roma, che sarebbe l'erede legale di Chirico. E loro hanno la collezione più grande nel mondo del periodo neometafisico della sua produzione artistica, che copre l'ultimo decennio della sua lunghissima carriera, che va dal circa 68 al 75. Ricordiamoci che De Chirico muore nel 78 all'età di 90 anni. Con queste opere De Chirico decide di riprendere gli soggetti che sviluppa per la prima volta negli anni 10 e poi altri soggetti negli anni 20 e 30, però con una chiave più gioiosa, e quindi il visitatore, quando viene alla mostra, riesce a vedere alcuni soggetti proprio iconici di De Chirico, come celebre Piazza d'Italia, manichini senza volto, lettore. Poi negli anni 20 De Chirico sviluppa gli archeologi, ad esempio, e poi abbiamo anche i bagni misteriosi che De Chirico sviluppa per la prima volta negli anni 30, quindi c'è un De Chirico completo disponibile, ma ecco, il visitatore può scoprire un altro lato di De Chirico, che è questo l'ultimo decennio, che sarebbe quasi una conclusione felice della sua lunghissima carriera. Parole sulla musica, non mi dire Pietro che hai anche la passione per il jazz, perché è così. No, mi prendo del tempo per rispondere. Ok. Odd Talmor, Back to the Land, è stato a Ferrara motivo del primo main concert di stagione al Jazz Club Il Torrione. È stato un concerto meraviglioso e mi ha dato la possibilità di prendere così una piccola ispirazione per il lavoro che è in esposizione a Palazzo Sarcinelli, no? Abbiamo una continuità, e questa è una continuità nonché nel disco, che ovviamente ho acquistato. Figurati se vado al concerto e non prendo il disco a disposizione. Sotto sotto la copertina vi è Ornette Coleman. Quindi le sonorità di Ornette Coleman, i lavori che sono stati ritrovati di Lee Konitz, ma come un Lee Konitz nel cool jazz e Ornette Coleman nella scrittura che rompe ogni recinto, o almeno troverà motivi diversi di struttura musicali come Ornette Coleman, come possono incontrarsi? Ecco come possono incontrarsi, in questo modo. Un interprete, quando si dice interprete per Oad Talmor, sia sempre un pochettino, soprattutto per i più puristi, motivo di critica, un motivo, insomma, dai, però. Ecco, un conto essere un interprete, ma mai di maniera, come lo è stato De Chirico per quanto riguarda il classicismo. È tutt'altro che di maniera, come stiamo ascoltando queste note. Chris Tordini al contrabbasso, Eric McPherson alla batteria, che è stato un motivo di interplay tra i musicisti magistrale. Il Joel Ross al vibrafono, che ricorda i Modern Jazz Quartet che abbiamo nella sigla, nel cool jazz, che direi proprio è uno dei musicisti in questo momento al vibrafono tra i più importanti. Un concerto bellissimo. Però Pietro, Ferrara ci sei stato? Sì, Ferrara sì. Ok, Ferrara sì. Ovvio, sto parlando con un fiorentino di bellezze artistiche, non mi permetto, anzi, però indubbiamente abbiamo veramente dei gioielli inestimabili, e quando vengono rapportati nel contemporaneo in questo modo è un motivo in più per amare sia l'attuale che quello che è stato come fondamenta dell'arte e della musica. Vi ho detto di una ricorrenza con il surrealismo, 1924, a breve quindi il centenario. Il surrealismo nasce da un manifesto scritto a Parigi da André Breton. Viene citato anche un altro artista, anzi lo cito io perché nel cuore mi sta, non perché fosse un grandissimo compagno, anche per quello. Non guasta mai. Non guasta, no, tutt'altro, anzi. Però vedi, René Magritte, che è questo, è un altro tutti i tempi, ha la capacità di avere un forte pensiero, ma nello stesso tempo di non renderlo invasivo nell'espressione artistica. E questo per me è un fondamentale. Non sto certamente criticando chi dà un aspetto di politica all'interno dell'espressione artistica, ma tutto ciò a volte, quando prende il sopravvento, va un pochettino a invadere delle volte. Ecco, René Magritte, comunista, si è sempre dichiarato tale, ma nelle sue opere, lui è uno dei padri del surrealismo, non vi è una, diciamo così, interferenza politica, perché poi rischia di diventare propaganda. Esatto. No? Rischia di... La differenza con la metafisica, parlo di Magritte in questo caso, nelle sue tele dipinge aspetti reali come persone, oggetti, tutti ben riconoscibili, ma sono uniti da strani e inconsueti legami. La metafisica va oltre la fisica. Il surrealismo è un'indagine sul subconscio, sull'inconscio, sull'aspetto onirico, sul mistero e sulla sorpresa. Vi è certamente motivo, come in tutte, beh, stiamo parlando di free jazz e cool jazz, che qui li troviamo assieme, per cui De Chirico e Magritte non avrebbero certo litigato, ecco. Oppure sì, chi lo sa, mi viene in mente Midnight in Paris di Woody Allen, non so se l'hai visto. Dove... Sì, poi De Chirico caratterino, dicono, certo. Comunque uno molto... Beh, sul pezzo da un punto di vista delle proprie competenze, quindi certo. Occhio a mettergli una virgola fuori posto. No, ma è guai, immagino che mi piacerebbe che fosse così, ecco. attenzione alla città estense di Ferrara e l'importanza di De Chirico per tutto ciò. Ne parleremo nella seconda parte di conversazione con la curatrice Victoria Noel Johnson. Sì, ecco, allora noi giustamente abbiamo anche gli interni ferrarese che De Chirico comincia durante la prima guerra mondiale, quando lui è mandato a Ferrara per 3 anni e mezzo per i servizi militari. E lì c'è un cambio importante, perché De Chirico focalizza più sul concetto dello spazio interno, che sono questi interni quasi claustrofobici, pieni di assemblaggi particolare, oggetti geometriche, appunto queste composizioni che si trovano in queste piccole stanze, questo è un cambiamento importante rispetto a quello che lui ha fatto poco prima del suo arrivo a Ferrara, cioè quando lui sta a Parigi dal 1911 al 15, proprio l'inizio della sua carriera. Quando lui si focalizza sulle piazze d'Italia e appunto incontra grande successo, sia in particolarmente critico a quel punto. Entriamo in mostra. Come è organizzato il percorso in mostra? Allora, la mostra è divisa in maniera tematica, quindi quando il visitatore arriva si incontrano l'opera che abbiamo utilizzato anche per le comunicazioni, che sono le muse inquietanti. Quindi si incontra le muse inquietanti per poi attraversare due sale che sono dedicate allo spazio esterno, quindi una selezione di varie piazze d'Italia e torre, e poi il visitatore incontra una selezione di manichini senza volto e gli archeologi, per poi entrare in uno spazio dedicato allo spazio interno. Quindi vediamo appunto questi interni ferrarese che De Chirico rivisita nel periodo neometafisico, seguito come conclusione dai bagni misteriosi, anche includendo il set litografico di 10 litografie che esegui nel 1934 per il poeta francese surrealista Jean Cocteau, che aveva chiesto a De Chirico, il suo amico, di illustrare. Ornette Coleman, mai banale l'interpretazione, mai di maniera, di Ad Talmor, Back to the Land, musicisti con lui, Cristo Ordini al contrabbasso, Eric McPherson per concludere la ritmica alla batteria. Lui veramente è stato autore di un interplay al concerto, ha dato veramente adito all'affermazione: guarda che il musicista è quello che deve conoscere la musica meglio di tutti, deve essere il batterista. Ecco, ascoltando McPherson, concretamente è così. Ferrara Ferrara, oltre che essere una città piacevolmente contraddittoria, secondo me, oltre che tutti i tempi, perché troviamo il Rinascimento ferrarese, Dosso Dossi, Cosmetura, potrei andare avanti a oltranza con l'Officina ferrarese dei grandi artisti, fino ad arrivare appunto a un Novecento che rappresenta al meglio una originale microsensazione estense, come la definisco io. Sì, l'estetica è unica, non sempre, e questo ne aumenta il fascino, rassicurante. Ferrara ha anche un che di misterioso, non arriva all'essere inquietante, certo che no, però ha sempre qualcosa che mette quella puntina, ed è indubbiamente un valore aggiunto alle sensazioni che può donare una città bellissima. Come del resto le opere di De Chirico hanno in queste prospettive, in queste piazze, in questi colori anche, beh, l'idea del manichino senza volto, come giustamente ha sottolineato Pietro nel capolavoro, una delle opere da me preferite, Ettore Andromaca. I due manichini sanno benissimo che non potranno trattenersi e De Chirico li rappresenta senza braccia. Oh, poi la cucina è estensa, non dimentichiamo. Tortellacci con la zucca, immagino. Anche lì non guasta mai. Anche lì non guasta mai, vedi, li mettiamo insieme all'arte, facciamo una bella gita, conosciamo la bontà e le delizie estensi. Non apriamo il capitolo delizie estensi, perché anche lì potrei ammorbarvi con la delizia del Bel Riguardo, la delizia del Verginese, anche tutti i dintorni, insomma. Quindi andiamo in pubblicità, rientriamo tra pochissimo. Abbiamo promesso una misteriosa storia d'amore a Ferrara e avremo modo di parlarne con la nostra curatrice per Giorgio De Chirico, Metafisica Continua, a Palazzo Sarcinelli a Treviso. Ah, sarà fino al 25 febbraio 2024. A tra poco. Sonora, e diamo anche una discontinuità, visto che stiamo parlando invece di una continuità, una metafisica continua. Nella colonna sonora odierna e di rientro dalla pubblicità per questa rubrica in mostra, oggi giovedì 12 ottobre, la colazione continua fra l'altro con questo lavoro, un lavoro tra il funky, l'aspetto di soundtrack sempre presente nella cocktail music. Siamo all'inizio degli anni 2000, Bobby Hughes Combination. Abbiamo parlato del piacere no gastronomico ferrarese, ma andarci piano, perché ultimamente sto trabordando non solamente per l'alto, ma esagerato. È un po' esagerato. Bravo, sto esagerando. No, non intendevo quello. (Ride) Quindi interesse per l'arte votiva, interesse per la metafisica e l'arte di De Chirico, ma a proposito di fisicità abbiamo interesse anche per il basket, da quel che ho capito. Ma mi puoi parlare anche di questo? Così ci conosciamo in diretta, bella questa conversazione. Grazie. D'altronde, no? Allora, io, per chi non sa quanto è alto Willy è molto alto. Il primo riflesso che ho avuto quando l'ho visto è stato cestista. Io non sono così alto, però ti piace? Sì, ho praticato, risultati molto scarsi. Oh. Al campetto di quelli, no, che hai presente, certo, mettono in difesa a correre. Corro molto perché quello non ci vuole molta tecnica a farlo. E io seguivo, pensa te la curiosità della vita, io seguivo la serie di basket 2006-2007, sì, quegli anni lì, ed ero una grande appassionata della Fortitudo. Ale! Della Fortitudo, esatto. Soprattutto, ci tengo a dirlo, di Stefano Mancinelli, che poi amici, il Mancio, esatto, amici anni dopo, più snob da un punto di vista delle competenze cestistiche, mi dicevano: no, ma il Mancio è scarso. Beh, insomma. Fa solo il gancetto. No. Vincilo uno scudetto, non solo un gancetto. No, non è affatto un atleta, è tutt'altro che un atleta mediocre, anzi è stato nazionale, oltre che la fisicità anche una ottima tecnica. Poi chiaro, magari loro l'hanno conosciuto nell'ultima parte di carriera, dove giocava più di mestiere, a proposito. Beh, di maniera, bisogna... ci sta. No, ma bisogna sapersi reinventare. Avessi fatto io la carriera di Mancinelli, cioè ci mancherebbe che mi metto a criticare Mancinelli. No, ma non scherziamo neanche. Comunque, allora, al martedì faccio una rubrica che si chiama Move to Groove ed è dedicata alla pallacanestro, magari di qualche anno fa, che è più attinente alle mie epoche. Continuiamo a parlare insieme alla curatrice dell'esposizione Metafisica Continua. Vi ho parlato di un aspetto che vede il centenario tra surrealismo 1924-2024 e una sorta di divergenza, ma nello stesso tempo anche motivo di dialogo. Continuiamo proprio così a discorrere per dare anche descrizione e presentazione di Metafisica Continua a Palazzo Sarcinelli. Parlando di un centenario, che è quello a proposito del surrealismo, nell'esposizione, ricordo 1924-2024, quindi vi è anticipando questa ricorrenza, vi è un aspetto anche dialogico con altri artisti in mostra, André Breton, Magritte e tanti altri, insomma. Allora, ci sono varie citazioni in mostra che richiamano Breton, come Breton ha visto De Chirico quasi come un dio. De Chirico, appunto, con il suo primo periodo metafisico, ha aperto gli occhi dei solisti a tantissime nuove possibilità con la pittura, perché ovviamente la sua opera, diciamo, il focus delle sue opere è di rendere tangibile il concetto filosofico della metafisica. Naturalmente i surrealisti sono ben diversi a De Chirico in questo. Loro si concentrano sul mondo del sogno, il subconscio, sono molto ispirati da Freud. De Chirico no, quindi diciamo la base è diversa, però i surrealisti prendono tanti diversi soggetti da De Chirico che poi lavorano come ispirazione. Quindi abbiamo unicamente le opere di De Chirico in mostra, ma in catalogo abbiamo autori come la dottoressa Sabine D'Angelo Sante e la professoressa Elena Pondigia, che hanno avuto modo di parlare anche di altri aspetti. La Pondigia, ad esempio, analizza il rapporto fra De Chirico e Jean Cocteau, mentre il mio saggio analizza il rapporto fra De Chirico e i surrealisti e come appunto l'hanno idealizzato per tanti anni e poi appunto i motivi per cui il loro rapporto è finito in un rapporto molto complicato dal 26 in poi. Quindi è stata un'occasione questa mostra di un po' chiarire vari aspetti complicati sul loro rapporto, visto che ci troviamo sulla soglia del centenario del surrealismo con la pubblicazione del primo manifesto del surrealista scritto da Breton. Che magari non ti tange, però vedi, chi non ha avuto possibilità accademica con questo lavoro c'è la possibilità di imparare. Questo è un aspetto. Io dico sempre che non sono uno storico dell'arte, non sono laureato in materie umanistiche per la letteratura. Io sto imparando insieme a voi, e questo con la presenza di giovani voci, oltre che di voci già più presenti come la curatrice che sta portando questa piccola lezione, è motivo di crescita, è un motivo per il Breakfast Club magari di ascoltare qualcosa che alzi un pochettino l'asticella per chi vuol fare colazione ogni mattina dalle ore 7 con il Breakfast Club. Adesso siamo curiosi per questa storia d'amore, no? Che è molto particolare, molto... Beh, direi che è una mostra oltre che completa e corposa, con un progetto di ricerca scientifico molto importante e originale. Per conoscere ulteriormente, lo dico spesso, uno degli artisti che nel cuor mi sta, che è Giorgio De Chirico, e a questo punto, dopo questa dichiarazione d'amore, mi permetto di chiederle questa possibilità invece. Qual è quell'opera così a bruciapelo che... questa mi ha colpito, di questa avrei voglia di citarla in questo momento. Cercando di non essere banale, però probabilmente Le Muse Inquietante. Ok. Perché lì, vari anni fa, abbiamo scoperto un parteggio importante fra De Chirico e una sua fidanzata ferrarese. Lui è stato appunto fidanzato a questa ragazza, una certa Antonia Bolognese, e intorno a due anni, e dovevano sposarsi, e per appunto quasi cent'anni questo rapporto è rimasto, diciamo, nascosto, nessuno sapeva di questo rapporto. E poi, ecco, scoprendo questo carteggio molto importante di lettere d'amore bellissimi che appunto coprono l'anno 1919, l'anno in cui De Chirico si sposta da Ferrara, va a Roma, scopriamo che Antonio Bolognese lavorava dentro il castello Estense, che si vede in fondo delle Muse Inquietante. E quindi abbiamo capito questa nuova chiave di lettura, che in realtà Le Muse Inquietante in parte richiamano anche il suo amore profondo per questa sua fidanzata ferrarese che doveva sposarsi, ma poi il suo padre appunto ha vietato come matrimonio, perché De Chirico all'epoca era un artista giovane con un futuro non sicuro da un punto di vista economico. Poi ovviamente con come sono andate le cose, ha finito come uno degli artisti più importanti del Novecento italiano, però all'epoca appunto fare una carriera come artista non, certo, non aveva un futuro economico sicuro. Ho voluto mettere questa ballad romantica dalla scrittura tra Ornette Coleman, perdonate, e quanti Coleman nel jazz? Coleman Hawkins, Steve Coleman, Ornette Coleman, Ornette Coleman in questo caso per il lavoro di Oda Telmore, e una ricerca nei lavori di Likonitz. E in questi carteggi invece per De Chirico sono spuntate delle lettere d'amore. Due anni fidanzato con una ragazza ferrarese, Antonia Bolognese, pensate anche qua a questo dualismo che porta dei contatti geograficamente ma casuali, però insomma, il padre dice: ma come, ti sei innamorata di uno che fa degli scarabocchi, dei manichini senza volto qui, che fa delle cose, le coppie ferraresi, ma voglio dire, insomma, che futuro vuoi avere? Forse si è mangiato le mani. Investimento sbagliato. Investimento sbagliato. Quindi è dedicato a tutti i futuri suoceri. Non abbiate... non siate troppo severi, insomma, se vostra figlia si innamora di un ragazzo con propensione artistica, ecco, certo, attenzione, ma non siate poi così distanti, Sì, e poi abbiamo un bellissimo quadro che è un trovatore unico, che è Trendromaca, diciamo, ritratte come manichini, sì, no? Come trovatore, però ovviamente è una coppia, mentre in mostra appunto abbiamo un bellissimo quadro del periodo neometafisico di un trovatore importante, e ripeto, abbiamo anche varie sculture in bronzo di Ettore Andromaca e altri manichini come soggetto. La mostra è fino al 25 febbraio, ovviamente, 2024, aperta da pochissimo, quindi siamo in contemporanea con questa presentazione. Io ringrazio tantissimo la curatrice Victoria Noel Johnson per questa piccola ma grande lezione di storia dell'arte per Radio Città Fujiko, e ci diamo appuntamento a Conegliano. Grazie, dottoressa. Grazie molto. Musica, adesso stiamo staccando con questo hand clapping soul, new soul, ma la colonna sonora per l'esposizione Metafisica Continua Giorgio De Chirico, curata da Oad Talmor, Back to the Land. That is what it is, release for free, yeah, for you and me. Protagonista e le emozioni, Giorgio De Chirico, la sede espositiva Palazzo Sarcinelli. Fino al 25 febbraio 2024, ricorrenza di centenario con il manifesto di André Breton sul surrealismo. I wanna be your lover. I wanna be your man and your best friend too. ha portato per la prima volta la sua voce in diretta e anche le emozioni, e io lo ringrazio immensamente. L'ho rubato alla redazione giornalistica, il nostro Pietro Rossi. Magari ci ritroveremo qua a fare colazione assieme. Grazie di cuore, Pietro. Grazie a te, Willy, grazie. Domani triplo appuntamento con un Breakfast Club come piace a me, quindi con la rubrica Altri Suoni Angelica, co-curatore Walter Rovere, che troveremo per la serata di venerdì stesso. L'approfondimento è sullo spettacolo Frankenstein a Love Story all'Arena del Sole e concluderemo con Zed Last Minute in vigilia di weekend, il venerdì di Radio Città Fujiko di domani. Per oggi è veramente tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Colazione alle ore 7, come ho già detto, a domani, a breve di Pen Enciclopedico, Liberi Dentro, poi la rassegna stampa curata e condotta dal nostro Alfredo Pasquali, coadiuvato da Manuela Bassi. E un grande abbraccio e una buona giornata, un buon giovedì, resiste la bella stagione, quindi l'abbraccio è ancora più caloroso, servo vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao Pietro, grazie, ciao, ciao. William, ciao.